Vulcano, sono Monserrat, Gigi Vulcano. Sì, volai, no, provo un baracchinetto così e ho sentito nell'lontananza, ma non sì, così per curiosità, ecco, con 5 vatti di baracchino, A casa sono. Sentivo, sì, Santiago sì, capito, Santiago sì, Radio 4, hai capito? Però io sono solo di baracchino, Positivo, dai, stavo provando un baracchinetto che sono riuscito a metterlo a posto e niente, dai. Per esempio sul 5 era sul 6 e sono riuscito a portarlo, diciamo, nella frequenza giusta, perché visto che ti ascolto bene vuol dire che funziona. È positivo, che c'è questo microfono, se metto un altro forse arriva anche più forte. Guarda adesso se è più forte. L'hanno frugato parecchio, capito? La parata è che ti ho tipo 8001, di quelli anzi tipo Ranger, di quelli lì, dai. Sono a bomba qui, sono a bomba, eh. Arrivi, se arrivi la Maserata, arrivi, quindi la prova è male, io l'ho votato per il poker, come si chiama, io diciamo di quelli degli anni 70, però so fare proprio di quelli a PLL, non ci sono, ma non lo so, non sarà di quelli. Attenzione, è passata. So sì. Stato di radio, non sarà. Ok, perfetto. Perfetto, mi arrivi adesso, tutti di nuovo arrivi, ma sarà. Sapeva cosa io usavo, ma sarà, io sono curioso, perché mi piace. Sapeva, capito, che io cosa usano gli altri anche. Ok, che marca è? È uscito. Facciamo il nome, riprendici. Oh, copri tu, guarda questo a vedere, questo era in mezzo alla... nel ferrovecchio, se non vedi, questo è più vecchio di semi, dimmi se sta uscendo pure questo. Sì, a che sta uscendo, e che apparato è questo lì? E questo è un CB747 della CTE, International. Capito, un CB, è un 40 canali, solo 40 canali già, e basta. Adesso mi lasciamo serrato, tu lo serrato, 14 canali, ma che apparato sei usato, Monserrato? Ok, dimmi che apparato è, Monserrato. Quello che abbiamo per un cieco, quello lì, è uno Zubia che... Ok, bellissimo, il Garrimano veramente bene. Ok, sì, mi state allora fregando quei vecchi apparati, così è. Positivo, questo me l'hanno, questo perché sto lottando adesso, me l'hanno regalato e non si capiva, non si leggeva neanche la marca, da quanto era sporco di terra, chissà quanto tempo era buttato in qualche posto, e io mi sono, l'ho fatto diventare lucido, lucido, lucido, lucido, non ho fatto nulla, l'ho aperto appena appena di radio, non ho fatto altro, non l'ho toccato, come non l'ho toccato, l'ho appena aperto di radio, questo qua che sto parlando adesso. Alla grande, e non vecchi apparati, c'avevano dei modulatori, guarda, ne sapevo con giocare inutili, i trasformatori di modulazione, io ne ho tanti, però quando ci metto gli occhi dentro c'hanno dei trasformatori di modulazione che sono la più del mondo, ed è per quello che riescono come radio a farsi sentire, e i vecchi apparati tutti così, adesso poi hanno migliorato, ci mettono un integrato e sta andando, e non so più come una volta, riprendi, non so bene. Ne ho tanti, perché sono 40 anni che sono in frequenza, ne ho tanti, e a me piacciono quelli a 23 canali, capito? Ne ho tanti, li colleziono, e quando modo lo so, fa sempre, sto usando un'apparecchiatura più sofisticata della cassa, un 440, e capito, però anche vecchi apparati con i relativi microfoni da base dell'epoca mi piacciono e mi portano un po' indietro al tempo, e allora erano quelli che io me li guardavo in vetrina perché ero poverino allora, però c'avevo una 5 canali, non serra, una 5 canali di usato, poi me l'ho modificato con i guardi di cinema, perché i capri due allora erano per dollari e quindi guardavo gli altri, però modulavo, ma si faceva sentire lo stesso, riprendici. È positivo, capito sempre quello di vecchia data, che ho pulito più che altro, l'ho pulito. E gli ho fatto il copertino Ufi, solo questo fa, adesso gli ho messo un po' di fatemi 2-5 minuti che salgo su a casa, che accendo lassù, dai, che sono giù in garage, capito? No, nella postazione di giù, che me ne salgo su a casa e riprendo lassù, datemi il tempo di salire su, riprendi capito? E ci sei concluso. Allora hai modulato anche il controllo, gli S0 si raffangono di male, poi è perché è intoppato, io sì, confermi. Ok, quello faccio da il tecnico, quello è morto lo stesso. Anche la moglie poi andava a capitare a Sassa, glielo così di vista. Grandi amici eravamo, quello come Tonino, Madonna, Santa. E così, e purtroppo sono cose che capita, lo mostrerà e non ci puoi fare nulla. Ok. Ma c'è un rinnovo del segnale? Blah, blah, blah. che dovrebbero darlo a tutte le donne, ma se vuoi li accetto. Ti sento più amplificato oggi. Ma almeno ti sento decentemente con questo. E con questo ti sento bene. No, ti sento bene. Ti sento molto molto bene. Guarda tu che... Mi è sembrato sentire qualcuno avanti che vuole entrare. Boh, mi sembrava di aver sentito un break, ma non boh. Avanti, capri. Ok. Ma oggi con la chiara con la manifestazione in Piazza d'Italia. Boh, e ti dico te. Non mi sono avuto il signor, cioè lo sapevo così, però mi confermo che avevo un altro perché l'ho impegnato oggi, no? Non ho potuto, diciamo, neanche presenziato, no? Non ho posto un luogo, gli ho dato lo freno del garage, guarda, domani entro a lavorare, e quindi non facciamo roba, perciò anche il Puma che se ne succede le batterie. E niente, sono anche partecipato, non so se c'è cosa, se c'è cosa, se ce l'ho fatta roba ce l'ho fatta un più salto. Più alto, se arrivavi 9 non mi dispiaceva. Vabbè, più di questo non posso fare. Poi vediamo un po' di sistemarci come Dio comanda, hai capito che adesso in questa metà settimana dovrò arrivare un amico mio con la scala aerea e piantarla sul tetto, capito? Poi vediamo un po' come usciamo, dai. Mettila a posto bene, capito? Mettila a posto bene, no, comunque sta andando bene, facciamo l'incontro da Capri 2, avanti Capri 2. Io qui Radio 5 Tappeta, Giulio, buonasera. Mi sembrava conoscendo prima, mi hai sentito alla grande, veramente alla grande. Ti volevo fare una domanda, Giulio, ma quella manifestazione oggi l'hanno fatta? Non ho capito già. Quella manifestazione oggi l'hanno fatta in Piazza d'Italia? Non ti so dire niente perché non ci sono salito in Piazza d'Italia, ero in un'altra parte stamattina. Tenemos otra movie. già? Vai al 10, che qui c'è un macello. Tua, ci sei? Gianni, Capri 2. Sono qui, però c'è sopra la popolazione, Giuseppe, un attimo vediamo di metterci in ordine. Chi è questo fischio? Ciao Giuseppe. Oh, ciao Giulio, buonasera. Bene, come va? Bene, tu? Bene, bene. Tutto qui, stavo ascoltando, stavo guardando le partite, patente, ma io va perso. Non ci sono problemi. E qui quale anche l'Inter ha perso, ci dobbiamo fare le condoglianze a vicenda. Infatti, pazienza, questo va a botta. Cappa, ma Giulio cosa stai usando? Normale? Sì, no, aspetta, ecco, normale adesso, è normale. Ah, ecco, perché ti sentivo un po', sembrava il cazzo dentro un barattolo. Ok, ma adesso già è normale, per adesso va bene, no? Cazzo, si vede la differenza, ma arriva i 9.20 a picchi positivi qua. Esatto. Via, avanti Daniele per Giulio. Dai, salutoni circolari a tutti, dai. Ciao Giulio, ben sentito. Ciao Daniele, salutoni, ben ascoltato. E riprendi. Allora, si dice? Niente di particolare. Stavo seguendo le partite, poi ciccia, adesso sono finite praticamente. Sì, qualcuno ancora sta giocando, ma oggi non avevo voglia molto di seguire, della verità. Le ho seguite tanto per morire. Perché non mi sono impegnato, oggi ha perso la Juve. Pazienza. Ha perso? Sì, ha perso, 2-1 ha perso. Bene. Riprendi Leonci. Ha perso anche la Fiorentina, Giulio. Ok, sì, è meglio così. Meglio così, però c'è la Lazio che ha vinto, ma comunque già rimangono sempre 5 punti, mi sembra la differenza. Saremo a vedere la prossima volta. La prossima partita c'è Sampdoria Juve a Genova. Sampdoria Juve, la Sampdoria ha giocato oggi ha giocato Juve Sampdoria. La prossima settimana non lo so con chi gioca, Dico subito, lo metterò in televideo e te lo dico subito con chi gioca la Juve domenica prossima. Ok, va bene, vai Daniele. Ciao, il Milan ancora gioca, stanotte ho già giocato. Il Milan l'ho lasciato che stava vincendo 2-1 con Siena. No, a Parma gioca, cioè Parma Juve, hai capito? Parma Juve, è una brutta bestia anche Parma. Sono squadre quelle che proprio sino alla morte. Il problema è che oggi ci mancavano anche gli avversari, la Juventus. Tra l'altro se ne è partito per fare il torneo in Africa. Chiellini infortunato, insomma, diversi giocatori che non hanno potuto giocare, Steiner squalificato, eccetera, eccetera. Marchisio che si è addoppato giocando oggi, comunque, andavano Matessi. E perché dell'Inter non mancava metà squadra a noi? Non ho capito. Ci mancava il Pompe, il Principe, non ha giocato. Dunque, vedi un po', la coppia d'attacco era Cassano Paracchio, ma hanno fatto schifo. Lo so, comunque. Ma quando c'è, sai così, quando ci sono queste interruzioni nel campionato così lunghe, ci sono quelle squadre che magari ne risentono e quelle altre invece che giocano, diciamo così, con più vigore, e allora riescono a fare il risultato a sorpresa. Vabbè, pazienza, non ce ne frega niente, tanto noi non diciamo niente. Avanti Daniele. Andava. Aspetta, guarda, una cosa qua. Sì, Alania. Ma che mi ha fatto? Oh, ecco fatto. Così è. Il Cagliari sta andando male, poverino. Il Cagliari ha preso per sfortuna, guarda. Perché Intanto c'era un rigore che probabilmente non c'era, non lo so. Poi il secondo gol lo stesso è stato vestiato non so da qualcosa, insomma è andato male, pazienza. E Mancagliari intanto quest'anno penso che ci scende in Serie B, non ha i giocatori per potersi salvare, ma nemmeno per sogno. Non c'ha soldi, no? C'è lì, sta mangiando quanto c'è. Cellino è un deficiente, sì. Perché Cellino è che ha rovinato Cagliari, lo sta rovinando. Il corrandaggio, sta pensando più che altro alla musica anziché al Cagliari. Il babarrutto di uomo, mercenario, che non è altro. Adesso si dovrà prendere un po' di giocatori per pagare gli stipendi. Ma comunque, vabbè. Ma direi che è buon Cellino. Avanti, Giuseppe. Purtroppo. La vita veri che vuole fare lo splaccone rimane lì dietro, dunque la gente è fatta così, dunque quando non c'è la possibilità di coso davanti ti fa la bella vita e dopo non riesci a pagarti cazzo tutti quanti i buffi che c'hai sotto, vedi la sorte di Castiglia. E purtroppo sì, purtroppo è così, ma sai cos'è, non ce la fa poi gli stipendi, perché gli incassi che sta facendo sono bassi, non sono più come quelli di prima, perché giocando lì a Ed Arenas è chiaro che non possono entrare tutti gli spettatori che entravano a Cagliari, non è possibile, comunque mai rivecchia. Già lo sappiamo, è sempre stato un mercenario, è stato per me Cellino, tra lui e Zapparini dello Palermo sono gli unici presidenti mercenari della Serie A, ma accidenti a loro. Avanti Daniele. Sta cucina anche la macchina che aveva sequestrato a Cellino, che aveva la doganata. A parte quello, ma e poi a tante cose, già lo sappiamo, anche in fatto di coso, di suo lavoro, eccetera, sempre stato denunciato più non posso, ma fa piacere. Oh, yeah. Adesso si è messo in testa di suonare in un complesso, e scende con il capo, anzi è fuori in testa proprio quell'uomo. Vecchiaia si mette a fare i complessi, eccetera, a suonare, pagliaccio, buffone, che non è altro. I soldi fanno male a testa, altro che... E lui non ha bisogno di soldi per essere scemo, perché è scemo da quando è nato. Avanti, Giuseppe. Purtroppo, i soldi a un certo punto danno anche la testa, c'ha ragione Daniele, e dunque è fatto così. Purtroppo, se chi stiamo male siamo noi, caro Giulio, stiamo male noi che siamo alla miseria e loro se ne fregano, tutti quanti, tutte le squadre giocando e ritirando a figliore di milioni di euro, cazzo. Anche loro le cose lo vogliono, però a noi il potere di travaglio non ce ne danno, hai capito? Lo so. Purtroppo è così, è un momento molto difficile per i poveri. E pazienza, e cosa vuoi che fare? Speriamo che migliori la situazione, adesso la politica si stanno ammazzando e massacrando l'uno con l'altro, sì che speriamo che vediamo che cosa succede quando ci saranno le nuove elezioni. Una cosa è certa, io dico che non cambia niente, anzi sarà sempre peggio. Vai Daniele. Così è. Ma sbaglio, sento qualcuno in lontananza. Senti qualcuno in lontananza, ma io non sento nessuno. Sentivo qualcuno in lontananza, boh, non lo so. Mi prendi Falchè? Doia, per carità. Ebbene, e tu, sto a posto, sì. Ehi, aia. Diciamo che sì, dai, potrebbe andare meglio, già non ci possiamo lamentare. Vabbè, l'importanza andare avanti e girare con la salute è buona, capito? L'importanza è quello, poi per il resto ciccia cosa vuoi fare, per carità, siamo al mondo civili e tutto quanto, caro Daniele, e lui ha, che è arrivato a un certo punto che c'è una certa età, fai domande di posto di trabocco, di lavoro e tutto quanto, non te ne accettano mai una. E tanto lo sono anche a loro, a chi dare il posto di lavoro e tutto quanto, capito? Qua bisogna essere delinquenti, drogati e magnaci. Quelle tre categorie, il lavoro c'è. Per noi che siamo una persone tranquilli e che abbiamo proprio bisogno di lavoro, non ce ne accetta manco una di domande quando la fai. È così. Ma mi ha fatto le tre domande che c'erano qualche settimana fa? Certo che l'ho fatte Daniele, l'ho fatte. Però ancora niente, mi ha detto un telefonato anche quello che era lì all'ufficio collocamento del responsabile, l'ufficio direttore, che siamo in buoni rapporti, e mi ha detto dice, per quelle domande ci passerà massimo una ventina di giorni, 25 giorni. Certo, ho detto in 25 giorni è da voto, io devo morire di fame, non ho capito. Vabbè, io sto aspettando anche le... L'altra che ho fatto prima, non so se annuda, ho fatto le visite, ho fatto le prove e il resto non lo so. È così Daniele, lo sai, è tutto magna. Avanti Giulio. Ok, stavo dicendo, Daniele, che tu sei senza lavoro? E allora giù, anch'io sono fermo. Porca miseria, ma non è possibile, cioè, che i giovani debbano essere senza lavoro, non è possibile adesso. Guarda, è una cosa che è veramente preoccupante, non è uno scherzo, non sembra così, ma è una cosa veramente preoccupante. Boh, io vorrei sapere cos'è che stanno pensando di fare questi bastardi che stanno amministrando, anziché cercare di creare lavoro, di dare la possibilità alle aziende di creare lavoro. Stanno facendo di tutto invece per farli smettere, per farli chiudere, non è possibile ragazzi. Lo so, è purtroppo la situazione in generale questa, non solamente in Italia, diciamo anche in Europa ci sono tante nazioni che hanno questi problemi di disoccupazione eccetera. Ma speriamo bene. Vai Giuseppe. E cosa vuoi fare tu? Il discorso anche se tu vai fuori, parti fuori, il lavoro non ce n'è, capito? L'unico ti devi trasferire all'estero, e all'estero qua, sino il tuo ramo lo riesci a trovare, però ti devi trasferire all'estero, se no devi imparare specialmente la lingua. Se non c'hai la lingua e non c'è un pezzo di carta come diploma, non ti pigliano. Arrivato a un certo punto uno della terza media, come ce l'ho io, non ne fanno proprio niente, capito Giù? Sì, io lo so, purtroppo è così, è una situazione veramente critica, altro che speriamo bene, cosa vuoi che ti dica? Io tutto sommato mi posso considerare fortunato, sono arrivato alla pensione e cicchia, e poi per me non era un problema il discorso del lavoro, perché io ho lavorato tantissimi anni a conto mio, dunque non dovevo cercare lavoro nessuno, anzi se volessi potrei anche lavorare anche adesso, potrei lavorare, visto che mi stanno ancora cercando. Però ho voluto smettere, basta, anzi diciamo che hanno voluto in famiglia che io smettessi, ciccia. Vabbè, io non ho la vostra età, ne aggiungo più, comunque, per dire no, ripeto, posso considerarmi fortunato che sono arrivato alla pensione, i giovani non lo so se riescono a avere la pensione quando avranno l'età, basta, speriamo bene. Avanti Daniele. È così Giulio, e chi la vedrà a pensione? Beh, e chi lo sa? Anche perché se uno lavora, contributi non ne può mettere, non ne può pagare, allora come fa uno? Se non lavora non si matureranno mai all'INPS i diritti appunto del lavoratore. Purtroppo è così. Maledetti che li vedono, io non li posso sopportare tutti questi politici bastardi, ragazzi. Vai Giuseppe. Capito. Il discorso è questo, che la pressione, tra l'altro, quando arrivi a una certa età, come arrivi a una certa età, sta creando la pressione, però ci lasci le prene, o muori prima, oppure la pressione tra l'altro non c'è morto. Allora, è stato male che in questi anni che tu hai lavorato, hai lavorato a fare per avere stato quattro soldi cagati, diciamo, sono quattro soldi cagati. Lo so, purtroppo, i quattro soldi saranno pure così, cosa vuoi che ti dica? Non è che a dire uno, beh, non ha lavoro e c'è un'assistenza che possa aiutarlo, che so io, nulla, ragazzi, un'assistenza te la danno una pensione sociale, un assegno sociale quando hai 65 anni, 65 qualcosa, 66 anni, una cosa del genere, ti puoi immaginare, ma è cosa ti danno, te danno sempre una miseria, ma quando arriva a 66 anni uno come che fa? Muore di fame 20.000 volte, boh, non è possibile. In Italia ci vuole una bella rivoluzione, andare lì in Parlamento a spaccare la testa a tutti quanti quei politici bastardi che ci hanno mangiato l'Italia e anche gli italiani. Vai Daniele. Per carità, va. All'altro che ci hanno portato, va. Penso che non abbiano poi tanti problemi, anche se a disabilità ce ne sono tanti di impiegati eccetera che hanno problemi anche loro, però quelli che lavorano per conto proprio, che hanno un'azienda, che hanno un'attività loro, allora il discorso è già diverso, perché bene o male riescono ad andare avanti. Chi non va avanti sono le piccolissime imprese, che quelle muoiono subito, è solo questione di tempo, perché moriranno tutti indistintamente. Vedi Sassari, basta guardare tutti i negozi che hanno chiuso, caspita, tutte le serrande, tutte abbassate, non c'è più nessuno, soprattutto al centro storico. Vai Giuseppe. Ho detto che ci voleva una passata lì della buonanima, e vedi che c'era stato quello, avrebbe un po' abbassato la cresta. E chi lo sa, sa cos'è, i tempi, oggi una passata di quello di una volta forse, ma oggi come oggi, guarda, anche lui si sarebbe adeguato alla stessa politica che stanno facendo oggi, dunque sarebbe stato ladro anche lui, non ci sono dubbi. Vai Daniele. Mi sono andato a sentire un break, avanti? C'è l'allucinazione stasera. No, è può essere che ci sia preparazione, perché stamattina c'era un po' di preparazione e magari si dà quella sensazione che sia qualcuno che voglia entrare. Va bene, comunque già siamo qua. Mi lasciamo un attimino di bianco, vediamo un po' se entra qualcuno. Vai Giuseppe. Capo, non ci sono problemi, vi lasciamo un attimo di bianco, dai. Tanto, cosa vuoi fare? Per carità. Avanti, chi vuole entrare sul binario 5? C'è tutti. C'è posto per tutti, ma nessuno ne ha voglia, quanto sembra. Va bene. Gianmarie, ci sei? Forse mi ascolto, ma non ne ho voglia giù. Buonasera, circolare a tutti. Sto ascoltando, ma sto guardando un programma che mi interessa giù. Già rientro magari fra un quarto d'ora appena che finisce. Va bene giù. Ok Gianmarie, d'accordo. Benissimo, ci fa piacere se entri in frequenza. Avanti Daniele. Ciao Giovanni, mi sentite? Buonasera. È così, tu ricordi come si lavora, come fai? 30 centimetri ti spennano? No, siamo già spennati, non è che ci spennano, siamo già spennati. Ripeto, io sono una di quelle persone che mi posso considerare fortunato, che grazie a Dio sono riuscito ad arrivare alla pensione dopo 45 anni di lavoro autonomo e nel totale complessivo di 60 anni di lavoro, se che ti puoi immaginare, e non sono pochi, ma comunque. andiamo avanti. Io sono solamente mortificato per il fatto che i giovani non hanno lavoro. E questo mi dispiace, ma mi dispiace veramente, guarda, perché non per niente, no. Un po' per quelle persone che a me non interessano, nel senso che non conosco, eccetera. E un po' anche perché ci sono in famiglia e le persone giovani che non hanno lavoro, capito? Grazie a Dio mia figlia non è così, perché anche se l'hanno adesso chiuso un contratto, già ne ha buscato altri, eccetera, eccetera. Però è una ragazza che si dà da fare dalla mattina alla sera, è sempre attaccata al computer, è sempre facendo e informandosi, insomma, facendo concorsi, cose che non fa. Capito? Adesso era a tempio, era fatto un anno, il contratto era finito e non l'hanno rinnovato. Dice devi aspettare un pochino e poi te lo rinnoveremo, saremo a vedere. E se no continui la tua professione autonomamente, intanto ti riprendi di nuovo la partita IVA e fai come stavo facendo prima, che hai lavorato per 12 anni, 13 anni autonomamente e continui a lavorare. Però mi era capitata l'occasione di andare posto in comune via Tempio, tra l'altro viaggiava tutti i giorni, viaggiava per andare a Tempio, e adesso è passato un anno, il contratto non l'hanno firmato perché dicono la regione al momento dice non assurdi, boh, non è possibile, è incredibile. Vabbè, comunque, ma si vecchia di buonede. Avanti, Giuseppe. Ega, no, sono andato a prendermi un pezzo di pandoro, Giulio. A me mi è venuta un po' di fame. Hai fatto bene, così almeno se sei un po' avvelenato, perché se senza lavoro ti addolcisci col pandoro, Giuseppe. Forse quella è la cosa più intelligente da fare. Vero, Daniele? Mangia. Io sono tra un po'. Se va a fare un po' di caffeina e ci vuole. Già, anche quello ci vuole. No, non sto prendendo caffè io. Sono già un bel po' di tempo senza prendere caffè. Prima lo prendevo a casa, poi magari quando salivo al lavoro, che adesso già sto salendo intanto, la mattina già sto andando, ma anzi da domani riprendo proprio alla grande, nel senso che me ne vado in giro tutta la mattina e così almeno mi stanco anche, così scendo anche qualche chilo di peso, perché peso 80 kg e voglio arrivare a 75, voglio vedere se ci riesco, perché sto mangiando troppo, capito Daniele? Allora bisogna cercare di fare anche un po' di movimento, è meglio. Se non divento troppo pesante senza lavorare, capito? È meglio fare così. Vai Giuseppe. Beh, giustamente, cosa vuoi fare tu? Quando sei a casa qua non fai altro che guardare la televisione, mangiare qualcosa e ti metti a fare l'ingrasso. Adesso, dopo finita questa festa, adesso bisogna andare un po' a dieta, perché se no fai a camminate e tutto quanto. Adesso riprendo a fare camminate e andare a farmi un po' di chilometri a piedi da casa. Faccio San Camillo e poi ritorno. Almeno 4-5 chilometri ogni giorno le devo fare, per forza. Aspetta Giuseppe, in salita proprio, dai. Ehi, va bene. Comunque, se dovessi avere voglia di venire dalla parte, da non sai dove, domani mattina tanto sicuramente c'è sangue, di sicuro, dunque non. Così possiamo prenderci un caffè insieme. Va bene, vai Daniele. Ehi. Giuseppe, a che parte, che zona abiti? Abito alla fine di via Valletta. Andava. Ma questa vita sì, più dalle mie parti, dai. No, negativo. Allora, prima di qua io abitavo giù a Pratamona, c'è Gallina Minore. Era lì, prendevo, me ne andavo, facevo da casa fino a Pratamona a piedi, la passeggiata, e facevo un po' di chilometri a piedi da lì, e me ne facevo qua, sono sempre attaccato al televisore, non c'è posto accanto per spostarmi, noia, per carità, c'è una maldronia, altro che. Così, va vabbè, dai, faccio 5 minuti di bianco e arrivo subito, dai. Bene, d'accordo. E così è, Giuseppe, e d'altronde, lo so, purtroppo, e quando uno non sa cosa fare, anche perché sa, sai, non è che offre molto, no? Anzi, non offre niente di a riguardo del svago, eccetera, non c'è niente, la boh. E arrivo lì, trovo qualche amico, così, un caffè, un cappuccino, anzi, io prendo sempre un cappuccino, e poi quattro passi, arrivo all'ora di tornare a casa, vado, compro il pane, la frutta e rientro, ma non c'è niente. L'altro giorno mi sono fatto un giro grande a piedi con Mauro, quell'amico che tu conosci, già lo conosci. E dunque succede sempre così, o con Mauro, o con Giulio, o con Sergio, o con Natalino, eccetera, facciamo così, e passiamo un'ora di tempo, ma niente di particolare, sinceramente. Anzi, no, domani devo andare, proprio Giuseppe, mi stavo dimenticando, domani devo andare a la pensione, se vieni presto a incontrarmi, ci prendiamo un caffè insieme, diversamente non lo so quando, a meno che non ci mettiamo in contatto poi telefonicamente, perché quando vado faccio la fila alle poste e non so a che ora ne posso uscire, capito Giuseppe? Adesso non mi ricordavo, ti stavo dando un appuntamento, ovvio ti avevo invitato a venire domani, però non mi ricordavo che dovevo andare a tirare la pressione, capito? Non c'è problema, Gio, non c'è problema, sai, quello di fare le commissioni, se ne avremo modo di piacere un caffè, no? Non c'è, se non c'è domani, c'è dopodomani, no, non c'è problema, Gio, poi non son quelli i problemi, hai capito? Beh, no, non di certo, no, perché non volevo farti venire, magari non mi trovavo lì al solito bar dove vado io a prendere il cappuccino, a meno che non vieni proprio presto nel senso, non so, intorno che so io verso le 9, 9 e un quarto, massimo 9 e mezzo, non di più, ma poi devo andare lì alla centrale, perché io la pensione la ritiro lì, alle poste centrali, via Brigata Sassari, perché non me lo sono fatto mettere nel conto, capito? Me ne vado e me li ritiro direttamente e poi me li porto io in banca, capito? Non c'è problema, giù, ho detto se non c'è domani, c'è dopodomani, non è quello il problema, hai capito? Non me ne metto problemi, però non è quello il problema. L'importante è andare avanti e tirare con la salute, altro che. Quella è una cosa di primissima importanza, la salute anche prima dei soldi, perché bene o male questo mi pare riusciamo ad averlo tutti i giorni, ma con la salute, quello, soprattutto quando si comincia da una certa età, bisogna andarci piano, bisogna andarci e stare sempre calmi, senza abusare, senza fare cose che non si devono fare, tipo so bene, vabbè io non ho mai bevuto, io personalmente non ho mai bevuto e non avrò mai quel vizio di sicuro, non ho mai fumato lo stesso, tante cose, ma comunque conosco anche persone che hanno fumato e bevuto per tantissimi anni, ma tanti anni, 50 anni, 60 anni e sono più in forma di me, ti puoi immaginare, è più anziani anche di me, Giuseppe, perciò a questo punto è anche una questione di fortuna, vai. Giustamente c'è gente che cazzo che campa anche a 100 e passa anni e se lo vedi cazzo è sempre un ragazzino di 40 anni. Lo so, beati loro che vanno a parlare, io ho avuto tutto il piano di dolore, ogni tanto mal di schiena, mannaggia la miseria, oppure mi si blocca un po' il braccio perché ho l'artrosi cervicale e lombare, allora quando c'è un momento di crisi mi prende anche tutto il braccio, mi prende e anche la gamba sino sotto il ginocchio. Vabbè, infatti alle volte mi fa anche zoppicare. Allora sono costretto a ricorrere ad una pastiglia che mi ha dato il dottore, una pastiglietta piccolissima, ma che devo prendere solo la notte, perché sennò mi addormento in piedi, capito? Dice, mi raccomando, prendo la notte, perché sono pastiglie forti e dopo mangiato intanto, perché durante il giorno ho fatto venire sonnolenza seguiti in macchina eccetera, è meglio fare attenzione, prendere la notte una quando hai il dolore basta, poi se non hai il dolore smetti e non le prendere più fin quando non ti ritornerà il dolore, sono praticamente delle pastiglie che ti cavano il dolore, no? Capito? Beh, io perché non ho prendere una pastiglia per il coso per il colesterolo. Dunque, la mattina, dopo colazione, io sto prendendo questa pastiglia e mi scende giù la pressione, capito? Dunque, adesso vediamo. Se me la cambia, adesso devo andare da Ortoreccia per farmi fare tutte le analisi. Alla testa, a me non me le faccio nuovamente, poi vedrei come sono, hai capito? E ok, io le ho fatte da poco le ho fatte tutte le analisi, le ho portate poi dal dottore, lui le ha lette e va bene. E mi ha detto, cioè no, per adesso non muori, così mi ha detto, cioè vanno bene così, mi ha detto. Sempre buffone, sì, siccome lo conosco molto bene. Ha detto sempre facendo scherzi, sai tu. Ha fatto, ma dimmi la verità, vai tranquillo che non è niente, vai, mi ha detto, così mi ha detto. Ha fatto, continua a non avere vizi, io, e anche che mangio mai avuto vizi. Se mi dice che mangio qualcosina in più, allora dice, non mangiare roba grassa, mi ha detto, e basta. Dice, non mangiare roba grassa e mangia quanto ti piace, non mangiare cose grasse e va bene così. No, mangiamo magari più pesci anziché più carne. Già mi piacciono i pesci, non è un problema. Anzi, a dire la verità, le preferisco la carne io. Scarpa, beh, giustamente, no, va. Io, anche se a me mi aveva detto l'autorezza di mangiare più pesce, capito? Specialmente il pesce azzurro, quella roba lì fa bene, ma a me il pesce poco mi piace, a me l'unica cosa che ti mangio volentieri, che ci vado da matto, sono i cosi, i gamberoni, certo, quelli mi piacciono, me ne dai un chilo me ne mangio. Sì, un attimo, la portante se vuoi andare. Stavo dicendo, sì, i gamberoni, ma io li ho mangiati anche a mattini, li ho mangiati. Pensa un po', era una rimanenza che avevamo dal coso, come si dice, da questi giorni di festa. No? E io li compro sempre 2 kg e 20 euro, anzi 20 euro e 80 centesimi per l'esattezza. Sono qui vicino a casa, nella zona industriale, vado lì e me li compro molto spesso, perché tutto sommato 2 kg a noi ci fanno, 2 volte ci vanno, ti puoi immaginare, noi siamo in 3 qui a casa, sicché non è, mia moglie li assaggia appena, praticamente me le mangio quasi tutti io, perché mia moglie e anche mia figlia li assaggiano, si può dire, no? Non sono molto mangioni loro, e allora diciamo che mi avanza molto di più per me. Ma comunque ripeto, infatti mi fa anche 2 volte mia moglie, naturalmente con la pasta e con tutto il resto, no? Eccetera eccetera, insalata e poi tutto il resto, la frutta eccetera, e allora è per quello che ne consumiamo, non ne consumiamo molto, capito? Vediamo un po' chi è che voleva entrare, avanti. Ehi, dai, sono sempre io, sono rientrato, ho cambiato apparato. Ciao Daniele, beh, allora tutto a posto, tutto hai fatto, gli ordini li hai eseguiti bene? Ma... oh, yeah. Vabbè, ma dimmi una cosa Daniele, sposato sì? No, giù convivo. Va bene lo stesso, intanto a cosa serve sposarsi? Basta convivere, quando due si vogliono bene, va ugualmente bene, che problemi ci sono? Non è il pezzo di carta, no, che conta, sono altri i valori che contano, Daniele, le prendi. È così, tra poi vado anche papà giù. Ah, auguroni, sono felice per te, figurati. Vabbè, già sei in età anche tu, quanti ne hai tu adesso? 20, 29, 30, quanti ne hai? 30 più 2 giù. 32, vabbè, caspita. No, io mi ero sposato che avevo 29 anni, quando mi sono sposato avevo 29 anni e 3 mesi, 4 mesi, una cosa del genere. E sono sposato 42 anni faccio che sono sposato, a Pasavo. al giorno dei candelieri, al 14 agosto, ti puoi immaginare. Infatti mia moglie me lo dice sempre, dice, sono 42 anni che ti sto sopportando, e io a te cosa ti sto facendo? Anche tu mi stai sopportando, e allora visto, allora siamo pari, siamo 0-0 oppure 1-1, vedi un po' tu. Oh, yeah. Vai Giuseppe. Matrimonio è bello quando due persone si vogliono bene e c'è fili, tutto quanto, c'è armonia e tutto quanto, il matrimonio è bello, però quando cominci già a fare tricche tracche ballate, ognuno se ne rimane a casa sua, e il discorso è quello, oggi conviene solo convivere, e fatto quello lì. Perché una volta che l'elicottero non ti va più di stare insieme a lei, e dice beh, fai una cosa, quella porta la sai, parala, io vai e viaggia. Da sposato questo non lo puoi fare, perché una volta che ti metti l'anello nel dito, tu c'hai diritti, anche lì c'hai diritti, e quando, è lo stesso, quello che è tuo è suo, quello che è suo è tuo, però il discorso è quello. Io mi sono sposato nel 95 e mi sono separato nel 2001, dopo la morte di mio padre, poi vabbè, c'è un figlio di 16 anni e purtroppo chi ci soffrono sono i figli, hai capito Daniele? È così. Hai cambiato l'apparato, eh? Cosa hai fatto? Hai cambiato l'apparato, mi hai detto? È rimasto un po' il capo, dai. Tra l'altro non è più acceso. Ho capito. Ma è così, lo so, Giuseppe. Purtroppo non tutti vanno d'accordo, e se due non vanno d'accordo è giusto allora che si separino ognuno per conto proprio, così almeno non si avvedevano la resistenza, ovviamente, però voglio dire, oggi il fatto di convivere non ci sono io, guarda, perché per me anche forse è meglio anche di quando due si sposano veramente. Perché io ho degli amici che convivo da tantissimi anni, diciamo una quindicina di anni, e vanno d'accordo, hanno dei figli, se sono felicissimi, non hanno mai avuto nessun problema, spero che non ne abbiano mai, comunque. È così, tu ne hai un figlio di 16 anni, io ne ho una di 30 anni, ti puoi immaginare? Ho avuto una di 40, ma purtroppo quella mi è morta quando era piccolina. Pazienza, è nata così. Questa già mi ha dato tante soddisfazioni, laureata, lavora sempre, quando non lavora per conto di qualche ente, lavora sempre per conto proprio, ad esempio in questo momento sta lavorando per il comune di Urbia, sta lavorando, e, nonostante adesso ho finito per il comune di Tempio, mi avevano fatto un nuovo contratto, ma quello ce l'aveva, era dipendente lì, mentre invece per il comune di Urbia sta lavorando ed è autonomo, non è un lavoro per conto suo, e tante altre cose, lavora anche per il tribunale, tutto sempre per conto suo, fa tanti lavori, insomma diciamo che non si gira il pollice, quando si siede alla scrivania lì al computer, è tranquillo, è sempre al lavoro, tanto è bello anche la notte, sino alle 10, alle 11 tante volte, ha tante cose da fare, e allora diciamo che se la cava alla grande, e guadagna, non ci sono, io le auguro che continui così almeno avrà, diciamo, un avvenire sicuramente. Vai Daniele. Vabbè, meno male, giù si riesce a arrangiarsi così, dai, alla posizione bene o male, se no è un casino. Sai cos'è, o Daniele, cioè avere un posto fisso è una garanzia per il fatto che non paghi tasse, eccetera, capito? È diverso il discorso, mentre invece quando stai lavorando autonomamente, guarda che mia figlia è arrivato a pagare anche 10.000 euro di denuncia in rete che mi in un anno, questo sino all'anno scorso, perché tutto quest'anno appena passato, cioè quest'anno appena passato ho lavorato per il comune, dunque era dipendente, ma l'anno precedente è arrivato a pagarsi anche 10.000 euro e qualcosina in più anche di denuncia in rete. Tu mi dirai, ma se li ha pagati vuol dire che li ha cassati, certo, ma di belle ore, di bel sacrificio ne fa, non ci sono dubbi. Vabbè, dai, comunque se fa fare il sacrificio che chiaramente non si può ottenere niente. Vai, Giuseppe. Purtroppo è il discorso, se non ci sono sacrifici, caro Giulio, la vita non è bella, capito? Bisogna assurarli i soldi e giustamente i soldi bisogna saperli lavorare e non farti prendere per i ceci come hanno fatto a me, che mi pigliavano a lavorare, sì, mi pagavano quei soldi, però mi davano una miseria e dunque tu sai che qual è il discorso, a cosa mi sono riferito, hai capito io? Ok, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Dunque, allora mia figlia ha studiato 20 anni, ha studiato 36 materie più la tesi, segreti pomeridiani, c'erano tante materie, anzi diciamo moltissime materie, tutte quante che ci volevano anche tre libri per poter studiare quella materia lì. Ed erano libri che costavano sempre intorno alle 300-350 mila lire, allora c'era la lira. E non era semplice, tutti i soldi che ho dovuto smorsare, già lo so io le ore che ho fatto, proprio per non far mancare niente a casa. Sì, perché se dovessi, io ho 70 anni, 71 aprile, là. Se dovessi mettere insieme tutte le ore che ho fatto di lavoro, come minimo avrei minimo 90-95 anni, ti puoi immaginare, perché ne ho sacrificate come. Ad ogni modo non mi lamento più di tanto, perché diciamo che adesso sono tranquillo, ecco, tutto lì, non ti dico altro. Vai, Daniele. Giuseppe, anche a me è successo così, io l'anno scorso stavo lavorando lo stesso, però per il ceccio è bello grosso pure, 13 ore al giorno per la miseria, viaggiando tutti i giorni, e poi per avere il ben servito. Vabbè, Daniele, lo so, ti capisco, lo so che lo vuoi facevi, però mi Giulio ne sa qualcosa io quando... ma io ero tutte le notti giù in quella cosa là, prendere freddo, pioggia, senza avere un riparo e poi perché a fine mese, che cosa, ritirarmi, che cosa, quelle 700, 800 euro al mese, però ne pigliavi più malanni che altro, che io lì ero anche con la febbre, non hai capito, dovevo fare... Facevo il coso del servizio guardiano, anche con la pioggia, e ci andavo anche con la febbre 38-39, e non c'era nessuno che mi poteva sostituire, capito? Vabbè, purtroppo è così. Loro dicono, se si sta bene quello, sotto la polvere c'è sempre un altro, però poi bisogna vedere quanto dura anche l'altro. Purtroppo Giulio, la mia situazione la conosce bene, perché noi abbiamo parlato anche verticale, io Giulio lo considero come un padre, capito? Per me è un padre Giulio, e dunque quando mi dava dei consigli io li accettavo volentieri, perché un padre ai figli, ai propri figli, quando gli dà un consiglio sono bene accetti per l'interesse suo, capito? Dunque, quando mi dava dei consigli io l'ho sempre rispettato io a Giulio, dunque, e accettavo i consigli che mi dava Giulio a me. Vabbè, cosa vuoi fare Giuseppe? Purtroppo la vita è così. Io, cosa vuoi che ti dica, io tanti anni più di te giustamente non voglio essere presuntuoso, ma un minimo di esperienza in più ce l'ho senz'altro, senza togliere niente a te naturalmente. Purtroppo è così, una persona più anziana fa sempre così, secondo me, ha modo di dare e di mettere a servizio degli altri la sua esperienza, è chiaro? Sì, che niente di particolare, niente di importante fatto da parte mia. Se posso e se mi accettano i consigli, io se non li accettano ciccia, non obbligo nessuno, ci mancherebbe altro. Questo sì. Purtroppo la vita è così, Giuseppe. Oggi, ripeto, oggigiorno io sono amareggiato, ce l'ho a morte, ce l'ho contro la politica italiana, ce l'ho a morte, proprio. Guarda che io sono un tipo che politica non ne fa, perché non mi è mai interessato, eccetera. Però quando io accendo la televisione e sento certe cose, anche se devo dire che la seguo la politica, tipo se le trasmissioni come Quinta Colonna, Ballarò, Santoro, tutte queste trasmissioni io le guardo, no? Non so lì a guardarmi Maria De Filippi, tanto per fare un esempio, no? Anche se a dire la verità anche quella può essere una trasmissione rispettabile, perché la gente che piace e basta. Ma per dire, io ce l'ho con la politica italiana, perché non lo posso sopportare che i giovani di oggi, tu non mi credi, ma a te cosa te ne frega, non hai la tua pensione, la tua vita ormai non è più giovane, eccetera eccetera. Mi dà fastidio, non lo so, è più forte di me, mi dà fastidio, cosa vuoi che ti dica? Avanti Daniele. È così Giulio, purtroppo dà fastidio perché loro dicono tutte quelle cose mentre si ingrassano alle spalle nostre, capito? Fanno buon viso a cattivo gioco. Cattivo gioco fanno sfruttamento e basta, fanno sfruttamento alle spese della povera gente, della gente che lavora, della gente che soprattutto mantiene in piedi la nazione, perché chi mantiene in piedi la nazione sono proprio quelli che lavorano manualmente, perché tutto quello che noi vediamo con gli occhi è stato costruito dagli operai e dalle persone che hanno lavorato manualmente, non da quelli che hanno fatto i parassiti come loro, perché sono parassiti e basta, si prendono gli stipendi senza fare un accidente. Ma comunque, se vogliamo, vai Giuseppe. Io appunto faccio, cosa possiamo dire? Il discorso è quello che quella gente, cazzo, più ne hanno e più ne vogliono, hai capito? Il discorso, io quando avevo giù il locale mio, nel locale del mio padre, quando avevamo il locale giù, io non ho mai chiesto niente a nessuno, anzi, sono gli altri che sono venuti da me e mi hanno chiesto tante cose, però quando tu vai a ricambiare nessuno ti apre la porta, perché il discorso è vero, le cose te le devi fare con le mani tue, e una volta che fai le cose con le mani tue, gli altri vengono e ti chiedono la limosina, ti chiedono quello, ti chiedono quell'altro, e per non essere maleducato, cerchi di accontentare un po' tutti, hai capito? Perché io quando avevo locale giù alla stazione ho preso di quella gente che dietro il banco gli ha dato un bel lavoro a tutti, e soprattutto a ragazzi in difficoltà, e padri di famiglia e tutto quanto. E adesso sono che stanno bene, e tu vai a chiedere una cosa e ti negano ti chiudono la porta in faccia, capito giù? Purtroppo sì, guarda, la gente che non ha coscienza, capito? E allora non deve fare niente del prossimo, e allora fanno così, pensano a se stessi e basta, anzi, in più delle volte nemmeno a loro stessi pensano, perché vivono magari così, come va. Purtroppo è così, come dice il santo, voi e cai este, però Daniele. Così giù, è così, dai gai. E allora? noia, ma comunque staremo a vedere che cosa succederà più in qua, più in là, con questo nuovo governo che si formerà a febbraio, marzo, quando sarà. Io non so se ci vado a votare, tu mi dirai, ma a votare bisogna andare, sì, ma ne sono, guarda, proprio stufo ne sono, di andare a votare continuamente. La verità, caspita, è una vergogna che ogni anno bisogna andare a votare, se dopo un motivo o per l'altro bisogna andare sempre a votare. Non è possibile, capito, la sorta di governo che abbiamo. Siamesani, Giuseppe. Te lo vedo, meglio la salute, l'importanza della salute è che sia tranquilla e tutto quanto, poi per il resto tutti quelli del governo ci possono pigliare e impiccare qua. Una corda come Dio comanda, è impiccato in tutti, dal primo all'ultimo, hai capito giù? Dal primo all'ultimo, tutti impiccati, c'è una bella bomba dentro quel dove fanno i cosi, buttare una bomba e fare sparire tutti quanti. Certo che con tanti delinquenti che ci sono nel mondo, se avessero fatto un miracolo del genere non mi sarebbe dispiaciuto a me, sinceramente. Poi non è che voglio essere violento, ma a me personalmente non mi sarebbe dispiaciuto, guarda, se qualcuno avesse veramente sorvolato lì quel palazzo di una certa città importante che c'è in Italia e avesse sganciato qualcosina per sistemarli tutti in una volta, così almeno avremmo fatto un funerale unico. Cosa ne dici, Daniele? Vabbè, ho cazzo e farlo andare lì, dritto spedito. Già lo so. Sarò anche cattivo, ma devo dire che più di una persona sarebbe stata contenta, questo te lo posso garantire, perché sentendo quello che dice la gente, parlandone tante volte, parlando di loro, più di uno gli augura la morte, che crepano subito. E vabbè, dai. Siamesani, ripeto. Vediamo se Gio Maria ha finito di vedere il film. Gio Maria. Non ha finito. Anzi, ha abbassato anche il volume del baracchino per seguire bene la televisione. Andava, cosa vuoi dire? Quasi quasi me ne scendo giù e mi guardo un film western. Ho la collezione di corso io, di John Wayne. Io ho un sacco di film, tutta la collezione di tutti i film che ha fatto John Wayne. E ne ho visto una quindicina. E tutti gli altri sono tutti quanti messi, conservati, quasi quasi scendo giù e me ne guardo qualche altro, così passo un'ora e mezzo, due ore, non lo so, è preciso. Va bene, dai, riprendi Giuseppe. Vabbè, fa bene giù, fa bene me. Sto a volume basso, cioè con la domenica sportiva, mi sto sentendo quello lì, e cosa vuoi fare? Altro, tanto si è fatta già quasi le 5 a mezza, è già buio, e cosa vuoi fare? Non aspetti che altro che arrivare alle 8, cenare e poi e ti addormenti, e cosa vuoi fare? La vita nostra è questa. Lo so, purtroppo è così. Purtroppo è così. Adesso ho girato su Rai 2, ho visto Giordano e Llorente è stato preso dalla Juve. Sarà, sperarci che sia vero, non lo so. Questo è l'allenatore del Milan, questo. Il tuo allenatore c'è, mi Daniele. Saluta, vado Giulio. Ma è quello pugna faccia, cosa saluti? È poco mi è antipatico quello, beh. Non Milano, lui che mi è antipatico. Un po' così, anche se sono tifoso non mi piace più di tanto. No, ma io non ce l'ho con Mila, io ce l'ho con lui è, per me è un guasto. Di solito vabbè, questi toscani non è che mi vanno molto a genio, io li consiglio, però vabbè, tutti quelli che ho conosciuto io, non voglio parte delle persone, sono delle persone ignoranti, e questo Allegri per me è un ignorantone, un deficiente. Tu pensa che tutti quanti i giocatori del Milan se ne sono andati l'anno scorso, no, l'ultimo campionato l'hanno fatto, proprio perché non andavano d'accordo con lui, se no il Milan non sarebbe stato in quelle condizioni. confermo giù, confermo. Ma anche quando era al Cagliari mi piaceva, ecco, con allenava, niente. No, non mi è mai piaciuto, è un, è una faccia così, come per dire, da furbo, no? Vuol fare lui la persona importante, invece non è per niente importante, è semplicemente un cretino per conto mio, no, non mi piace proprio, guarda. Sarà così a pelle, solo a vederlo, no, mi dà già fastidio, penso un po'. Vabbè, avanti, Giuseppe. Tutti quanti gli allenatori sono bravi, hai capito tutti. Quando cazzo loro si ritirano i soldi e lo stipendio, anche loro vanno a criticare le squadre, cazzo, che i presidenti che non lo pagano come lo devono pagare, e allora si lamentano, hai capito? Tutto quanto è magna magna. Perché adesso nuovamente Berlusconi vuole entrare nuovamente in politica? Per aggrappare un altro po' di soldi, ha capito? Io lo so, ma comunque, anche lui è un povero diavolo, lasciamolo fare. Avanti, Daniele. Povero diavolo, come la squadra. E comunque, stavo guardando fuori adesso, il portiere di Juventus. Per me ha fatto un errore lui, oggi la Juventus l'ha perso, soprattutto per Buffon, perché aveva un pallone in mano, gli è scappato e poi si era lasciato entrare in porta. Poi dico, il portiere provava il mondo, io la verità non ci ho mai creduto, io sono juventino, però non ci ho mai creduto che Buffon sia il portiere per provare il mondo. Ce ne sono i portieri bravi, altro che Buffon, incominciando ad esempio Casillas, il portiere del Barcellona, tanto per degne uno, Andanovic, un altro portiere bravissimo che gioca qui in Italia, ce ne sono portieri bravi. Comunque, l'italiano ha fatto così, mette sul piedestallo una persona quando poi magari non è proprio, realmente non è proprio così. Vai Giuseppe. Che i soldi fanno questo e altro, caro Giulio, quindi sono una massa di ladri, compreso tutti quanti quelli, questi qua più ne hanno e più ne vogliono, hai capito? C'è gente che esce cazzo in Ferrari, in Maserati, e non la pagano, e non vanno a dichiarare quello che hanno fatto, hai capito? Siamo noi, cazzo, siamo stupidi che noi quello che abbiamo andiamo a dichiarare nelle cose, tot, e dobbiamo dichiarare questi, cazzo, non li chiedono mai niente. Purtroppo così, cosa ci vuoi fare? Oi, le prendi, Daniele, a proposito Daniele, e quando? Allora, fra poco mi ha detto che ne vinci papà, e quando sarebbe questo fra poco? Al prossimo mese, giù. Al prossimo mese, caspitina, allora ci sei proprio vicino, voglio dire, niente ne sai, avete fatto il video per vedere se è maschietto o femminuccia? Maschio. Vedo Daniele, il primo figlio è meglio per lo maschio. Va benissimo così. Ce lo credo. Meglio così, sono contentissimo per te e anche per la tua donna. Figurati, ci mancherebbe altro. E va bene, avanti, Giuseppe. Daniele adesso è tranquillo, sta facendo il papà tranquillo, mette più a testa e tutto quanto, c'ha più responsabilità e dunque adesso vengono i belli, adesso vengono i belli, caro Daniele, avanti la cosa fra un po' cosa significa, non è perché è bello avere un figlio perché è tutto quanto di coso, allarga la famiglia, tutto quanto, sì, però detto tra noi, te ne accorgerà più là cosa vuol dire. Così, oh mamma mia, ma va bene, va bene. Di persona e mi sono reso conto che una persona con la testa sulle spalle non è certamente uno di quei ragazzi un pochino messi male di mente, già è una persona abbastanza equilibrata e sa lui come deve portare avanti la famiglia, già lo credo, ci mancherebbe. No, non ti scoraggiare, no Daniele, perché la vita è così, deve anzi essere così, e ci mancherebbe altro, vuole vedere, se no allora alla fine come si farebbe senza nascite, non sarebbe assurdo. È una gioia, guarda, immensa avere un figlio, soprattutto il primo, guarda, è una gioia immensa, questo te lo posso garantire. Io purtroppo per il primo figlio sono stato sfortunato, e è morta dopo un po' di giorni, ma questo non significa che poi non sono stato contento ugualmente quando è arrivata la seconda figlia però devo dire che poi a un certo punto abbiamo detto basta così, almeno non abbiamo niente, diciamo così, da avere paura, perché sinceramente c'era paura, visto considerato che la prima figlia era nata col cordone umbilicale corto, era nata e dunque ha avuto problemi di respirazione, non si era messo in funzione un polmone e purtroppo in ospedale poi è morta. Tutto lì, allora siamo rimasti un pochino fifoni, ma questo sono fatti che succedono una volta ogni mille anni, capito? Dunque non è quello il problema, ci mancherebbe altro. E così è. Avanti, va Giuseppe. Ma io stavo scherzando, no? Io sono contento per Daniele che meglio, anzi, a farne molto di più, capito? A farne molto di più di questi figli, almeno la famiglia ingrandisce tutto quanto, per dire, io quando ho avuto il primo figlio, vabbè, giustamente, questo dovrebbe essere il secondo, quello dei 16 anni, però anche a me mi è morto un figlio e era incinta di 4 mesi, dunque per una frenata, diciamo, brusca, la mia ex moglie ha perso il bambino e ci ho sofferto parecchio, hai capito? Ci ho sofferto e tutto quanto e poi ci abbiamo riprovato e è nato questo bambino. Per me, va, sono l'uomo più felice del mondo. Io auguro a Daniele di godersolo tutto quanto, tranquillo e tutto quanto. Bene, Daniele. Va bene, dai. Tra un poco, vediamo. Lo conosciamo di persona. Oh, che bello. Hai pomponi, no? Hai un sciabucco. Sul corvo al telefono, aspetta. Ciao Luca, salutoni. A te devo rispondere al telefono, no, è stato lo scudo del corpo, dirti. Adesso da sotto acqua sono uscito. Mi sta ascoltando, dai. Come ho fatto rientro? Allora ecco. Come mai? Siamo anche in aspetto. Come può essere? Allora, come va a chiedere la macchina spento? Guarda, innesca quasi. Ah, non so. Non è che è commutato, attaccato da qualche parte, Lu? No, è spento il macchino, spento. Strano. No, vabbè, che a me a volte succede, ma quello è un altro rientro di... vabbè, altre cose che ho vicino qua, ma so cos'è, questo è strano, Diciamo Giulio anche a te, Giuseppe, no? Giulio, riprendi. Ciao Luca, pare che non ci avrai qualche controllo di antenna, il filo dell'antenna che non fa bene contatto, o c'è qualcosa vicino, qualche radio, hai capito, che non ti faccia dei rumori strani. No, se non c'è l'antivirus nella baracchina, se glielo scarico, glielo metto. Avanti Giulio, che sei? Sì, un attimino che sto parlando qui a casa, un momentino, voglio già riprendo subito. Fai fare la scansione, Lu. E tu non c'è l'antivirus nella baracchina? Allora, nel senso che ce l'ho. No, Giuseppe. Non ho capito, Luca. Non c'è l'antivirus nella baracchina? Cosa c'è? Non ho capito. Ho detto, non ce l'hai l'antivirus nella baracchina? No, io non ne ho, non c'ho niente qua vicino al baracchino. Il mio baracchino qua è libero, tranquillo, non c'ho niente, né radio, né nulla, né telefonino, nulla, non c'ho niente. Tu che c'è l'antivirus, qual è la VG adesso? E allora, VG 2013 aggiornato. Non ho capito, no, io ho messo l'Essentia, quello proprio della Microsoft di Windows. Poi ho messo lo SpyBot. Ma siamo ancora più sicuri? Capo, vedi che non strappo, perché l'antivirus non ti fa entrare il virus. Dai, ripeti, io sto scherzando, guardi che c'è l'antivirus e le baracchine. Ci sarà qualche fantasma dentro quel baracchino, Luca, qualcuno che c'è entrato. Per far contenta La signora. La, come la spasimante, spasimante. Io via. Ma per caso ti ha portato lui? Ti ha portato nulla. Una cosa buccata era. Come? Ho detto, una cosa buccata era. Sono? Lorenzo, c'è la calza buccata la Befana. Ehi, ehi, ha passato le caramelle la mia. A casa non ti ha portato la carta. E allora, la carta chiude, non attesti. Ma no, come se già ho ricevuto dei pacchi di cioccolati da fuori, dall'estero. Ah, già va bene, già va bene. A me è nuda, calza chiude. Guardi, la Germania, la buoni, ma tu devi assaggiare questi cioccolati. Sono la fine del mondo. Veramente buoni. Se capita, ne vogliamo fare, se non trovare qualcuno lo puoi assaggiare. Andrà bene, andrà bene. Se sono cambiate le note le case, così faccio una Befana, le trova pulita e invece nulla. Come se nine. Cosa lui? Ciao, per il prossimo anno, vediamo. Non ho capito che c'ho l'occhio, se non vedono una calza marchiata, di marca, non ti mettono nulla? Sono cinesi, sono da lì su. È cinese, mi pare, furoci, niente, dolci. Per carità, per carità, se non scherziamo, non passiamo l'ora, per carità, e vabbè, andiamo avanti così, dai. Oh Funia, lasciato dai questo cavolo di telefono, ho motopompa, ci sei? Mi pare che motopompa, avvicino al telefono aveva la lattina di birra, altro che, cosa ne pensi? Mi sa proprio di sì, ma sei molto, mi sa. Carburazione. Per carità, per carità. Ui. Vabbè. Vabbè, Daniele, domani? Nulla? Tra poco? No, domani a casa. Poi, vediamo già, cosa fare. Ce ne andiamo lavori da fare qua, tutto giù me devo fare ancora. Piano piano li sto facendo. Fai di uno niente, no. Te ne eri andato oppure col tuo tabacco. Cosa è successo? Ehi, ciao, mi sei stato di brutto, a più piano ne sono andato. Ah, cappa, purtroppo, quando le persone non vanno d'accordo, quando provi poi trovi malumore e tutto quanto, non c'è voglia neanche di fare servizio. Ma tutti quelli che sono entrati, diciamo, presso a me, tutti andati via, tutti, non so se ce n'è ancora una giù che sia rimasta, ma non lo so ancora, però tutti gli altri, tutti andati via, tutti. Ma perché? Per il fatto della presidenza oppure o dell'associazione che non si comportava bene? La presidenza è che non va bene, capito? Poi non c'erano malumori, non faceva più a lavorare, stavi sempre in brea, capito? E andavi col malumore e se tornavi col malumore, anzi più incazzato di prima te ne tornavi. Ah, cappa, non basta che ti spaccavi il ceccio, cazzo, che ti facevi il culo lì, cazzo, e poi ti andavano a criticare. È lo stesso discorso come quando io facevo servizio al poliziotto, che non andavo d'accordo con i colleghi, là, con i volontari, c'era uno proprio che mi stava dicendo, scusando le frasi, sulle palle e loro non intervenivano e allora alla fine mi sono costretto a fare la, ho fatto le cose, la lettera, le dimissioni e me ne sono andato. No, era a mettere le mani addosso, hai capito? Io a quel punto lì non me ne fregavano niente, dunque no, ho preferito fare la lettera di dimissioni e andarmene. Sì, ma che poi ti ci portano, Giuseppe? Arriva un punto, non c'è più le scuse. Capito? Poi quello che ne esce, ne esce, perché tieni oggi, tieni domani, poi il vaso c'ha una fine e trabocca. Appunto faccio, poi trabocca e poi dopo che è traboccato non c'è più rimedio di svuotarlo, perché poi ti porta sempre a un limite che ti rovini tutti, capito? Io invece ho fatto la cosa più giusta, ho preso, ho dato le mie dimissioni, ho detto beh, fate una cosa, ho detto giratemi le scatole, voi presidenti, soci e che cavolo c'era lì dentro? Fatta, beh, adesso giratemi le scatole, io me ne sto andando, ma io non ti devi comportare in questa maniera, qua, là, ma non mi devo comportare in questa maniera, cazzo, una, eravate un anno, cazzo, prendendomi per il culo, cazzo, avevo capito, spazzandomi il culo, cazzo, facendo il turno di notte, e da voi non vengo niente riconosciuto quello che, anzi, ho dovuto, metterci io la tasca per la cosa, per le convenienze vostre, e poi non lasciare neanche ricambiato. Ho detto no, avete sbagliato persona. Così, ma donna era la presidentessa prima? Sì, era una donna. Ma era una donna e il marito. Non ci ho capito che stai dicendo, dai, ce la conosco. E va, io ti dico una cosa, io sai chi era il presidente? Che modulava anche qua al baracchino. Teschio. Già ho capito, dai, già ho capito. E lei era Mingherlina? La ex moglie. Graziella, hai capito chi è? La voglia che ne conosce. Appunto perciò. Cazzo, gli facevo servizi, cazzo, quando facevano trasporti giù a Coso, a Olga, portavamo il paziente a Olbia, cazzo, dovevo rimetterci io in tasca, gli facevo il piano dell'ambulanza, cazzo, poi, dice, una volta che già te li diamo i soldi, già te li diamo, e questi soldi non sono mai riusciti a recuperarli. E volevo fare quella persona all'epoca, se ci andavo, poi tra una cosa e l'altra non sono mai andato. Ho fatto bene, ho fatto bene, va, ne ho girato io, ne ho girato di cose, di associazioni, allora io ero al polisoccorso, alla Croce Blu, poi alla... un'altra associazione, quella che ci aveva Cagliari, non so se te lo ricordi. Non lo ricordo. Che aveva il coso, il furgone, quello, il Ducato, ambulanza, con dentro il medico, tutto quanto a bordo, sala operatoria, tutto quanto, che era quella sotto il ponte del Rosello. Ho capito, cosa c'aveva? Quello ci aveva l'associazione lì, che adesso non mi ricordo cosa era, io ho fatto anche lì, il servizio lì, quando c'era anche quello, io ho lavorato anche con Colgio, alla Croce Blu, quello che era morto in incidente, non so se te lo ricordi, a Franco Fanari, te lo ricordi? No Giuseppe, non me lo ricordo. Quello che aveva avuto l'incidente alla camionabile con quell'Alfa Alfa Sud, la cosa era, quella verdurina che aveva lui, che lo chiamavano Charlotte. No Giuseppe, non lo ricordo questo particolare. Vabbè, io Emilio l'hai conosciuto. Emilio, quello che era alla Croce Blu, quello cieco. No, troppo indietro, non li ho mai conosciuti. Vabbè, comunque. Qua io periodo c'erano loro. poi c'era cosa, c'era Gianni Merlino alla Croce Blu, e dunque eravamo un po', poi c'era anche cosa, non so se l'hai conosciuto, Andrea Cini. Cioè, sono cose che ho già sentiti, boh, però non mai conosciute, diciamo. E vabbè, comunque, appunto perciò, per dirti, tutta questa gente qua pretendeva che faceva il servizio e poi non è mai ricambiato, e dunque questo va a fanculo l'associazione e tutto quanto, e me ne sono andato, boh, e non ne ho più fatto. Purtroppo è così, è tuttora così, chiedo, se poco riconosciuto. È che io abitavo da Sassari, a Sassari, non mi voleva l'associazione di cosa, dell'ambulanza di Alghero, del polisoccorso di Alghero, avevo fatto la domanda e mi avevano accettato, però insomma dovevo viaggiare tutti i giorni, no? Non mi conveniva a me. Così, ma pagato o volontario? No, volontario, hai capito, volontario, Dani. Beh, ottenevo neanche un rimborso spesa, niente. Nulla, hai capito, nulla. Se volevo andare a fare servizio, dovevo scendere io con il mio mezzo, oppure in treno, e senza fare servizio quanto durava, hai capito? C'erano delle orarie, la mattina dalle 8 fino all'1, e poi andava alla stazione, si pigliava il treno delle 2 meno qualcosa e ritornava a casa. Poi di domani lo stessa cosa, ho detto no, mi dispiace, non fa per me. Vabbè, si iniziano a fare così, non è più volontariato, perché se uno è volontario va quando c'ha tempo, ai giorni che dice lui, noi giorni che dicono loro. Ma hai capito, loro pretendevano di fare questi servizi quando, hai capito, a piacere loro, questo no? Questo allora non è più un sì, non è più un sì, non è più un volontariato, questo è un obbligo. Allora, se volete l'obbligo, mi dovete pagare, se no, arrivate, me ne sto a casa. Se prendi atto, pretendo, eppure un bel, non può. Vabbè, c'è meglio fare volontariato, fare le tue ore e è finito. Giustamente. Non è rientrato nessuno. Luca, ci sei? Barbara. Abito la sera, ti stai mettendo, Lu. Giulio, ci sei? Giulio, sei ancora impegnato. Mi prendi Giuseppe. Ma è quello là, molto pompano. Cazzo, liberato sia il telefono, Bravo, e al telefono sta facendo. L'amore sta facendo al telefono. Control. Molto pompa, ci sei? Non deve essere che no. O è andato a fare una cosa urgente. Vuol dire qualche piacere. E noi? Brecker. Avanti il break. Ancora buonasera. Ciao, buonasera a tutti, non per questo affatto. Ho sentito a Luca di Sugitta, Giuseppe, Daniele, chi c'è pure? Per adesso ci siamo io e Daniele, poi ci sei tu adesso, Robè. Buonasera. E auguri, E auguri a tutti, anche se qualcuno l'ho già sentito l'altra volta. Luca, c'è ancora, devo chiedere roba. Sì, dimmi. Luca, come si fa, che non me lo ricordo più, quando apri il computer, cancellare la password, mettere un'altra nuova? Non ne ho robe così. Allora, aspetta. Non mi ricordo. Allora, start. Pallone di controllo. Allora, io l'ho perso, era pure Juve, vabbè, anche l'Inter l'ha perso, ma anche la Juve, adesso faccio la blitz di questo mio amico, perché mi mandava i messaggi 3-0, 3-0, anche la Juve l'ha perso però. E già lo grido, stava vincendo 1-0, io era in 10, dopo mezz'ora erano già in 10, e la Sampdoria stava giocando in 10, ha vinto 2-1. Sono quanti vuoi, XP? E Windows XP, sì. Io qua aspetta genitori, per qualsiasi utente. Vedi, Andrelli. Ti andrei sul pallone di controllo. Ci sarà sul pallone di controllo. Start, pallone di controllo. Sì, ci sono. E passa un altro canale, così lo disturbiamo. Passa sull'otto, dai. Pizzolani, è com'è il discorso? Oi. È così. Allora, questo è tutto. Sì. E poi hai provato più a fare altre domande da nessuna parte in queste associazioni? Negativo, niente, no. Ho portato una volta il curriculum qui a Corso, a Sassari Soccorso. E niente, no, l'ho consegnato direttamente al presidente, e no, ma non mi faceva sapere lui e non mi ha più cercato, capito? Me se l'ha dimenticato io. Lasciamo perdere anche quello, per carità. Forse se ne sarei servito avrebbe cercato, vuol dire che non gli interessavo e più cercato. Aspetta. Così, è un casino, Tu domande non ne hai fatto, no? Ma dove c'è l'ufficio di collocamento? Più quando sto aspettando ancora la risposta. No, vabbè, la risposta la so già, sto aspettando che richiamino. Ho fatto tutto, però non so quando inizio. Io ho fatto quelle tre domande che c'erano usciti nel giornale, che scadevano il 13, ma io le ho fatte prima del 13, adesso sono andato il 7, il giorno 7, e le ho fatte. Dunque, cosa vuol dire? Ancora non si sa niente. Aspettiamo per queste. E l'altra sono già passato, nell'altra te l'ho fatto, nella questa tre. E poi vediamo da esce fuori. Cosa vuoi dire? Il discorso, quando fai queste domande non ti aspettare mai che ti si concretizzi qualcuno, mai, perché l'unica volta che io ho fatto una domanda avevano chiamato per il colloquio lì alla cosa del, come si chiama, agrario. Allora, un posto per 11 persone e si erano presentate non voglio esagerare, ma 50 persone erano. E tutte quante le facevano una domanda che quale animale stava in questi cose, gli alberi dell'olivo e come si chiamava. E ho detto, guardi, mi dispiace, io questa cosa qua non lo so come si chiama, che è un animale che si mette nell'olivo. E chi lo sa? Allora, la selezione facevano così. Allora, una selezione, mi pare che ne hanno preso questi 50 persone che eravamo, ne hanno preso solo 3 e gli altri tutti quanti a casa. Sì, sì. Ma questa ultima che abbiamo fatto, c'era anche Luca, c'era il mondo, c'era, allucinante. Lo so, Dani. Allora, il giorno che io ho fatto la domanda, fuori c'erano la bellezza più di 130 persone la sera, io parlo di sera, la mattina dice che c'erano oltre 300. C'era il mondo, ho fatto dire anche la Luca, c'era il mondo. E io te l'ho detto, la sera io non sono andato a fare la domanda, che ero dalle 2:20 e lì apriva alle 3:30, cosa era? C'erano una belletta di 150 persone. E così, poi lasciamo le risse, si adduffano per entrare, ora c'è fuori un casino. Allora, non hai capito, si adduffano per le cose. Ah, com'è che io sono riuscito a farla tramite un'altra persona, se non lo scrivo, ma a fare queste tre. E anche quella precedente l'hai fatto, no? Io ho telefonato passare una, massimo una ventina di giorni, 25 giorni massimo, perché ancora stiamo sbrigando le vecchie domande, capito? Se è così. Ciao, ciao. Mi sa che è entrato Luca. No, c'è ancora di là. All'otto. Ciao, ciao. Luca. Aspetta un secondo, Giuseppe. Già sono qua, Dani. Giuseppe. Oh, dimmi, Dani. Ehi, sono rientrato, dai. Hai capito. Purtroppo. Cosa vuoi fare? È un casino contro casini, perché no, non si può più andare avanti, no, poi se non si sblocca qualcosa, veramente siamo costretti a andarcene fuori, Daniele, almeno lì qualcosa a poco a poco, però riesce a lavorare, qua neanche poco a poco non fai nulla. Bel casino. No, vabbè, conosco gente che è stata all'estero ma sei rientrata perché non c'era niente. Vabbè, però mio parere dipende anche che il settore stava facendo, capito? Dunque, perché lavoro mio di coso, di bar, ristorante, quella roba là, ne stanno cercando, perché me l'hanno detto, me l'hanno confermato e ne fanno cercare, però il discorso è che non sai la lingua, hai capito? C'è anche quello. Quello mancello è. Tutto sarebbe imparare un po' l'inglese e allora, giustamente, con questo inglese che sai, riesci, se vai fuori, riesci un po' a lavorare, ma non più del tanto, E si conferma, sai, ancora per tutto, cioè, è un casino, purtroppo. Avevo chiesto anche il fatto lì, delle cose lì, c'è quella nuova associazione che hanno aperto, quella di Sant'Anna, anche lì avevo fatto la domanda, però non mi hanno dato nessuna risposta, ho lasciato il mio curriculum e non mi hanno chiamato, hai capito? Già capito, mamma mia, quella vuoi lasciar perdere? Perché, com'è? Diciamo che è la 13. Ci vediamo di riportare nuovamente il curriculum a vedere un po' se c'è il soccorso, vediamo un po' se l'accettano, è buono, a me un po' di volontariato ci facciamo per rimanere fermi, vediamo un po'. Vabbè, quello è vero, almeno te sei a casa, buttato, qualcosa da fare. Anda per Eneida! Purtroppo, cosa vuoi fare, se no, tanto stai sempre appresso ai cose, all'assistenza sociale, ti dicono sempre la stessa cosa, che devi aspettare che prima ci sono gli altri e poi se c'è fortuna ti chiamano a te e ti fanno un contratto di 3 mesi che ritiri una certa cifra di 250 euro al mese. Se io devo campare con 250 euro non ci ho preso. Se ti va bene ti danno, so ti dicono che non c'hanno neanche quelli di aspettare. Ma me l'avevo chiamato 3 mesi e poi mi aspettavano gli altri 3 mesi e non li ho fatti, non mi hanno più chiamato. Però il contratto mi hanno fatto firmare perché c'era la possibilità di chiamarmi altri 3 mesi, però poi non si sono più acciarati. Adesso il 18 c'ho l'incontro nuovamente con l'assistente sociale, sperando che a gennaio si sblocchi qualcosa. È così. Cioè, ti disgraziati per avere qualcosa, perché se no, voi, non Compleanno, se no. Cosa dicevo tu poco fa? Purtroppo, per avere un posto di lavoro, devi essere o delinquente, o spacciatore, o quello, o quella roba lì. A quelli sono più, i più agevolati. A noi che abbiamo proprio bisogno di lavoro, che non ce ne danno, e dunque, hai capito? Il discorso è quello. A quelli, perché ci hanno, sono agevolati, ci hanno un articolo sotto, non ho capito cosa è, gli danno questo posto di lavoro, perché non sanno dove andare a spazzare la testa. Noi, cazzo, che siamo, che dipendiamo da quelle persone là, non ce ne danno. Hai capito? Che siamo benestanti, secondo la testa di loro. Cioè, avanti. Positivo è capo a Roggio, cazzo, io non presento per niente, Ciao Massimiliano Bulldozer, buonasera. Positivo, buonasera, ciao Daniele, ciao Giuseppe, cazzo Giuseppe, non sempre per niente. Purtroppo si conferma Massimiliano. Non possiamo, stiamo facendo questi piccoli scrucci, però la realtà è quella, hai capito? Stiamo sempre piangendo nella miseria. Un piccolo discorso, andiamo a casa nella radio, si sente parlare del travaglio. Vabbè, avanti Daniele per Massimiliano Bulldozer. Ciao Massimiliano, ben sentito, dai, buonasera. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato, la speranza che mi ascoltate. Ehi, a voglia, forte e chiaro qua. Pagava, ecco, pagava. Cazzo Daniele, Daniele, ma Giuseppe sempre per niente. Fotti per niente. Cosa vuoi fare, Massimiliano? Cosa vuoi fare? A te? Mettendo le corna, diciamo. Se dovessero mandare via da dove stai lavorando, cosa fai? Cosa faccio? Mi prendo 4 nigeriani. E le metti a parte, no? Vabbè, come ti vado le due, tu quello magnaccio. Neanche quello si può fare, Massimiliano, manco quello, perché c'è troppa concorrenza. Che se c'è, allora? Per carità. Avanti, Daniele. Va bene, dai, importante la salute alla fine, poi il resto arriverà. Positivo, dai, io faccio un bianco secondo, le prendi Giuseppe. Oia, per carità, è così, e vabbè. L'importante è la salute, Daniele, che siamo tranquilli, sani, e per il resto... Ciccia. Ehi, sono per adesso deve essere zingaro, per questa gente ci sono sempre i sulli. Non sai che cosa, i rumeni, quella roba lì, altro, spacciatori, per questa gente c'è sempre il lavoro, cosa vuoi fare? Tu prendi a coso, come si chiama, quello che è stato dentro... in galera per cosa, per furti di appartamento, dico da là, adesso sta lavorando lì al comune lì di fronte a come si chiama, dove c'è il vicino a buon pastore lì, quel comune dove ritirano tutti quanti i rifiuti, quella roba là e tutto quanto lì, e l'hanno preso lì 6 mesi. Però fai tu la domanda e non ti accettano, hai capito? Ehi, all'autoparco stai dicendo. Autoparco, sì. E ti posso dire anche il nome, chi è? Tanto Graziano, Scaldabagno. Ehi, non ho capito che stai dicendo. Quello, perché c'ha quei precedenti penali, tutto quanto, è stato dentro, per furti e... compagnia bella, era seguito dalle assistenti sociali e l'hanno trovato il lavoro, hai capito? E si è messo a posto, tanto a posto, c'è famiglia, tutto quanto, gli hanno dato anche la casa popolare e dunque sta bene adesso. Va bene, va bene. Poi non c'è nessun altro qua, solo noi siamo arrivati. Sono noi due, poi Luca non so se c'è, ha finito. Boh. Di solito è sempre di là sul lotto. Ah, scappa, vabbè. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? C'è una attesa che rientri in motopompa. Di solito è compuio, è sparito. Yeah. Motopompa, motopompa, motopompa. Ci sei? Se non lasci dare la stina di birra, motopompa, ci sei? Non c'è nessuno, va? Va bene, Dani, ci sentiamo più tardi, se coincide, sono fatta la buona, alle prossime, fammi sapere qualcosa per quella questione là. Vabbè, non te le faccio adesso, gli auguri, però te faccio al momento, quando verrà, hai capito, Dani? Sì, a Giuseppe, dai. Non c'è problema, ci ascoltiamo alle prossime, dai. Buona serata, buon tutto e buon proseguimento. Yeah. Ciao, ciao, salutami anche la signora. Via, contraccambio, dai. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao.